Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qua, gentili ascoltatori, 18:37, 800 24 00 24 è il nostro numero per le chiamate in diretta, sms al 349-238-6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail, TG2. Arrestato l'amministratore di Total Italia, l'inchiesta è dei PM di Potenza sugli appalti per l'estrazione del petrolio, coinvolto anche un deputato del Partito Democratico. Sono 40 gli indagati a Pescara per presunte tangenti negli appalti pubblici, tra loro anche Carlo Toto, patron di Air One, ieri arrestato Luciano D'Alfonso, sindaco e segretario regionale del PD. Strage di Erba, Olindo e Rosa condannati all'ergastolo in primo grado, sono stati trasferiti in due carceri diversi, il legale dei coniugi Romano parla di misura disumana. Continua l'ondata di maltempo in Italia, a nord neve e rischio valanghe, vento e nubi fragili al centro-sud, a Roma nuovo allarme fiumi, da domani previsto un miglioramento. Esce il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Il Cosmo sul Comò, un racconto ad episodi tra effetti speciali e citazioni illustri. Vogliamo far ridere, dicono, ma senza volgarità. Piovono pietre, anzi indagini sul Partito Democratico in tutta Italia, come avete sentito, con l'arresto del sindaco di Pescara nella notte, insieme ad altre persone, arresti domiciliari e poi anche le indagini di Woodcock in Basilicata. Alcune cose che vengono fuori dall'Abruzzo però sono abbastanza curiose. Naturalmente ci sono le prove, secondo il procuratore Trifoggi, che però aveva detto le stesse cose per Del Turco. L'accusa ritiene che sia stato provato il passaggio di soldi in cambio di atti amministrativi favorevoli. Sono stati sentiti dei testimoni, ma è un'indagine documentale. E però il PM, che si chiama Gennaro Varone, che ha condotto l'inchiesta su D'Alfonso, aggiunge un'altra cosa nella ordinanza di arresti: il sistema è tale da avere minato radicalmente la stessa democraticità dell'amministrazione cittadina, cioè c'è un giudizio sulla democraticità dell'amministrazione cittadina che viene dato dal PM. Sentiamo Studio Aperto. Da Potenza un nuovo terremoto giudiziario. Manetta, l'amministratore delegato della Total Italia, per presunte tangenti e richiesta di arresti anche per un deputato del Partito Democratico. È la nuova inchiesta del PM Woodcock sull'estrazione del petrolio in Basilicata. PD nella bufera anche a Pescara. Arrestato il sindaco per presunti favori e tangenti. Vibo Valencia ammazza a fucilate i due cugini, poi prima di fuggire spara allo scuolabus, illesi bambini, ferito l'autista, l'omicida è soprannominato Ciccio il Pazzo, a scatenare la follia vecchie ruggini per questioni di eredità. Più di un metro di neve in 24 ore, allarme valanghe in Piemonte che chiede lo stato d'emergenza e l'invio dell'esercito, abitazioni evacuate per l'allarme Po, strade chiuse a Roma per l'esondazione dell'Aniene, allagamenti tra Ostia e Fiumicino, danni per 50 milioni, chiesto lo stato di calamità naturale per il Lazio. Rosa e Olindo Romano, i coniugi condannati all'ergastolo per la strage di Erba, sono stati trasferiti in due carceri diverse, lui a Piacenza, lei a Vercelli. La decisione è presa nonostante il parere contrario degli psicologi, nessuno l'ha comunicato a marito e moglie. Catania rischia la vita per uno scippo, vittima una donna di 68 anni. Bene, 18:40, numero verde 800 24 00 24, la sintesi della situazione in Abruzzo, divertiamoci un po', di Felice Pautasso, personaggio radiofonico eccezionale, poeta di Pavarolo, da Ho perso il trend, Radio 1, sentite. Occorre una riflessione. Andiamo. Pietro dice sempre, e che ci azzecca? Che ci azzecca? E gli altri sparpagliati fan cilecca. È tremendo. Non sanno che la vipera nel seno, la vipera nel seno, si scalda sì, ma poi ti dà il veleno. Ti devi liberare in tutti i modi. Doveva parare. Perché altrimenti vince sempre chiodi. Guardate che è delirante, ma è straordinario, naturalmente. Ancora, perché poi è un'analisi alla fine nettamente più chiara di molti editoriali che stiamo leggendo in queste ore. Il paese di Bengodi, sentite. Il paese di Bengodi. Abruzzo è era il paese di Bengodi. E invece adesso si è beccato Chiodi. Per giunta, proprio ieri, una cagnara. Una cagnara? Col sindaco inguaiato di Pescara. A rider sotto i baffi c'è Di Pietro, che glielo ha messo a tutti nel sacco. E va bene, comunque è chiaro che dopo le elezioni in Abruzzo c'è un grande vincitore, 15%, grande capacità di creare consenso. Certo, era una situazione particolare quella in Abruzzo. Il vincitore ieri ospite a Porta in pompa magna di fronte alla Russa come fosse il vero capo dell'opposizione, insomma Antonio Di Pietro, che lo dice esplicitamente: insomma, io faccio opposizione quella dura, chiara, comprensibile, dall'altra parte né carne né pesce. Io credo che i cittadini abbiano scelto l'Italia dei Valori per una chiarezza del linguaggio, una determinazione dell'azione, un ruolo che svolge in modo chiaro e evidente, senza quelli che fanno né carne né pesce, un giorno sì e un giorno pure, una volta una parte e una volta l'altra. Io le cito testualmente le parole che oggi ha detto Veltroni per rilanciare il partito, perché si devono porre loro il problema all'interno. Veltroni ha detto: dobbiamo fare di più sulla questione etica. Allora, che è esattamente ciò che sta facendo l'Italia dei Valori. Allora non si può dire dobbiamo fare di più sulla questione etica e dobbiamo contrapporci a Di Pietro. Non ha senso, non ha logica. Anche perché c'è una parte del Partito Democratico, come sapete, che dice basta con questa alleanza con Di Pietro. Marco Follini lo dice da tempo e poi tanti altri. Veltroni invece è grande sconfitto, c'è un grande vincitore, c'è un grande sconfitto, indubbiamente Walter Veltroni, che addirittura dice meglio perdere e rifondare il partito. Guardate, io dico una cosa che un segretario di partito non dovrebbe dire, ma la dico: preferisco in certe situazioni pagare un prezzo elettorale subito, ma garantire il futuro del Partito Democratico e del riformismo piuttosto che il contrario. Naturalmente in questa situazione spuntano fuori le idee di complotti più strani ai danni dei perdenti. Costantini, che poi sentiremo in diretta, che è lo sconfitto, anche se vittorioso nello stesso tempo, il candidato di Di Pietro in Abruzzo, dice sono stato oscurato da Del Turco, le interviste contro di me. Veltroni che sostiene una tesi curiosa, cioè le televisioni e i giornali di Berlusconi danno spazio in questi giorni a Di Pietro perché insomma fa comodo avere come oppositore Di Pietro. Il grande complotto dei media berlusconiani contro Veltroni, sentite. Berlusconi adesso fa con Di Pietro lo stesso giochino che faceva con Bertinotti prima. Guardate le televisioni di Berlusconi, guardate i giornali della destra, sono pieni di spazi, anche magari aspramente polemici. Ma qual è l'obiettivo che Berlusconi ha da sempre? Quello di scegliersi l'opposizione. A proposito di Berlusconi, a proposito della difficoltà che hanno spesso, naturalmente ci sono episodi di corruzione, mi pare evidenti in alcuni casi, quando sono provati questi episodi di corruzione, la difficoltà che hanno gli imprenditori, ricordate quando Berlusconi parla di costruzione, cioè di investimenti immobiliari, naturalmente, di costruttori, in generale il rapporto tra i politici, la burocrazia e gli imprenditori, i soldi in bocca che bisognava dare per far camminare la macchina burocratica, sentite. Tu per poter iniziare un cantiere devi passare attraverso tutta una serie continuativa di autorizzazioni. Ogni passaggio dai in mano la possibilità a chiedere la cosa di dire bene, se tu vuoi bene a me io voglio bene a te. E infatti io ho un'esperienza grandiosa in questo perché per esempio io come imprenditore ho smesso di costruire a Milano. Quando io ho iniziato a fare l'imprenditore non ho più costruito niente a Milano, perché a Milano i progetti non andavano avanti se uno non arrivava con l'assegno in bocca, tanti anni fa per fortuna, ma è così. Quindi ho costruito in un piccolo paese dove invece tutta era fatto il centro di Nord, in un paese come Brugherio. A Milano non sono più tornato a costruire perché c'è una cosa che io non potevo assolutamente sopportare, questo. Quindi abbiamo questa esperienza diretta che allora, mi fa dire che questo è assolutamente una burocrazia. Salutiamo Piero Ostellino, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora Ostellino, al di là dei casi singoli che si stanno accavallando in questi giorni, Firenze, adesso la Basilicata, naturalmente l'Abruzzo, a me pare che ci sia un problema più generale che riguarda il rapporto tra gli imprenditori locali, in questo caso naturalmente anche nazionali, e le classi dirigenti, che siano del Partito Democratico, che siano del PDL a livello locale. Cioè manca che cosa? La trasparenza, quello che in altri paesi è un si chiama regolazione degli interessi che sono in campo, perché il politico è vero che deve avere un obiettivo che è quello del bene comune, però il bene comune altro non è, come lei ci dice bene, che è una mediazione tra vari interessi privati. Quello che manca in Italia è la trasparenza di tutto questo, perché fino al punto che un sindaco come quello di Firenze è costretto a incontrarsi con il principale proprietario di alcuni terreni come Ligresti e con il proprietario di una società di calcio come la Fiorentina quasi in segreto, e ha delle difficoltà ad ammetterlo. Io credo che al fondo ci sia questo come problema. Ma lei sa quanti sono i ricorsi che piombano sul tavolo dei giudici che si preoccupano appunto della legittimità dell'azione amministrativa ogni anno? Sono 100.000, cioè ci sono 100.000 ricorsi da parte di imprenditori e di cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Sa quanti erano nel 93 e sono presumibilmente ancora adesso i ricorsi ancora pendenti in attesa di decisione? Sono 800.000. Questo è un paese paralizzato da un eccesso di legislazione e dell'incapacità della sua classe politica di uscirne. Questo è il problema, cioè non si tratta più di una questione di onestà da parte dei pubblici amministratori. Il ministro Calderoli, che è preposto alla semplificazione legislativa, ha detto recentemente, molto gongolante, di aver già eliminato un certo numero di leggi inutili. Caro ministro, lei non deve eliminare le leggi inutili, perché essendo desuete non sono già più applicabili. Lei deve eliminare le leggi utili, utili al potere centrale e periferico, per far sì che un imprenditore che voglia, ad esempio, cambiare il proprio stabilimento in un complesso residenziale ci mette 10 anni, perché questo è il paese dove per esercitare un proprio diritto bisogna pagare una tangente. Per esercitare un proprio diritto, tante sono le leggi che ci impediscono di esercitare i nostri diritti. A questo punto, di fronte ai casi di corruzione o comunque di male amministrazione degli enti locali, che cosa fa la classe politica? Parla di questione morale. Io non ho ancora capito se sono incompetenti, se sono imbroglioni o se sono cialtroni. Cioè nessuno che pensa che una semplificazione legislativa fatta in tempi brevi, rapidi, farebbe ripartire economicamente il paese il giorno dopo. Sì, anche perché non si capisce il motivo per il quale, prendo sempre l'esempio di Firenze, non si possa tranquillamente cambiare la destinazione d'uso, se di un terreno, di uno stadio, di un parco, se l'amministrazione eletta dai cittadini vuole farlo e dovrebbe farlo in tempi rapidi, in maniera trasparente. No, perché ci sono decine e decine di leggi e regolamenti, certo, certo, che fanno sì che non si possa fare, o meglio, si può fare soltanto se l'imprenditore di turno ma lì dice: va bene, questo è un mio diritto, però tutte queste leggi mi impediscono di esercitarlo il più presto possibile, quanto costa? E da qui nascono le tangenti. Allora evidentemente queste leggi da eliminare sono quelle utili a chi ci campa sopra qui. Senta Ostellino, un'ultima cosa riguarda, naturalmente non voglio entrare nei dettagli che né io né lei conosciamo, però il PM che ha disposto l'arresto del sindaco di Pescara se ne esce con questa frase: il sistema è tale da avere minato radicalmente la stessa democraticità dell'amministrazione cittadina. Ora io non credo che sia compito di un giudice definire democratica o meno un'amministrazione cittadina. Stiamo parlando, per carità, poi sarà vero, il sindaco di Pescara avrà preso 200.000 euro di tangenti, io non lo so, naturalmente bisognerà aspettare i giudizi definitivi. Si sta parlando sempre di 200.000 euro, eh? Stiamo parlando di 200.000 euro, di un arresto per 200.000 euro. Ora però un giudice che dà una patente di democraticità o meno ad un'amministrazione cittadina in base ad un'inchiesta, è una cosa normale? Ma no, è una cosa normalissima in un paese in cui non c'è più nessuno che faccia il suo mestiere. Cioè i giudici avrebbero il compito di applicare la legge, cioè vedere se la legge è stata violata oppure no. E invece no, vogliono salvare la democrazia, vogliono salvare l'anima degli uomini, vogliono farli diventare più buoni, vogliono fare in modo che si conquistino il paradiso, magari anche soltanto in terra, e magari di qualche colore, rosso o nero che sia. Bene, sarebbe ora a questo punto che si riformasse tutto ciò che è necessario riformare in Italia affinché questo paese diventi un paese decente, appena appena decente. La ringrazio, buona serata. 18:53. Andiamo in provincia di Brindisi da Antonio. Buonasera. Naturalmente questo lo diciamo senza entrare nel dettaglio delle inchieste e senza dire D'Alfonso o da altri sono colpevoli o innocenti. Antonio, provincia di Brindisi, eccolo qua. Sì, buonasera. Dica. Complimenti per la trasmissione. Niente, io volevo fare un appunto su quanto riguarda il discorso alcolemico allo 0,2%, no? Sì, alcuni dicono meglio togliere questa ipocrisia dallo 0,2, diciamo direttamente tasso zero, oggi leggevo sui giornali, così almeno. Sì, però cioè, qui il solito Stato italiano che vuol prendere provvedimenti per fare meno morti sulle strade, però non sa che pesci prendere, mi sembra sempre il solito discorso. Io faccio premesso che... Perché lei è così contrario? No, perché io sono un agente di commercio. Sì. Ho più di 2 milioni di chilometri alle spalle, più o meno, insomma. Allora, non ho mai fatto un incidente guidando regolarmente, tranquillamente, normale. Certo, se uno inizia a guidare male, sfreccia o agli incroci ferma, però non ferma, ma va, cioè ci vuole correttezza sulla strada. Poi automaticamente si riducono tutti gli incidenti, le morti, eccetera. C'è da premettere anche un altro discorso, che è quello dell'eccessivo dell'eccessiva tolleranza da parte della polizia, dei vigili urbani, eccetera. Perché a me capita tante volte che vedo alcuni che in seconda corsia sorpassano tutti al semaforo, il poliziotto o il vigile sta lì e se lo lascia passare. Vabbè, Antonio, lei affronta due temi che sono quelli dei controlli, che certamente devono essere rafforzati e se ne parla da tanto tempo e non si fa nulla, e quello poi del modo di guidare, della cultura della guida. Sì, sono due problemi che esistono, sono cose che vanno migliorate. Qualcuno ha paragonato però una possibile introduzione di una legge che vieta di bere, di guidare solamente se uno ha bevuto anche un bicchiere, alla legge sul fumo, che è stata talmente drastica da avere eliminato il problema nei locali. Ernesto da Milano, buonasera. Salve. Ma io volevo commentare un attimo il discorso dell'esito delle elezioni in Abruzzo. Perché mi è venuto un dubbio, mi sembra fuori di discussione che il Partito Democratico abbia avuto una debacle anche se non soprattutto a causa della tangentopoli dell'Abruzzo, diciamo. Ma certo, non c'è dubbio. A controprova Di Pietro ha guadagnato un sacco di voti esattamente per lo stesso. Cioè, secondo lei è un caso eccezionale? No, non è un caso eccezionale. No, il dubbio che mi viene è come mai il Partito Democratico, su un discorso di tangentopoli, tanto per semplificare, perde un sacco di voti, mentre il Partito delle Libertà, che annovera fra i suoi membri, a partire dal suo capo in giù, una serie infinita di gente che ha avuto inchieste, in qualche caso anche condanne. Che lei dice non viene svantaggiato, anzi guida il paese. Cercheremo di rispondere più avanti. Sentiamo come ci riassume la giornata al TG3. Arrestato a Potenza l'amministratore delegato della Total, l'accusa a tangenti sugli appalti per il petrolio, coinvolto un deputato del PD. Appalti pilotati, decine di indagati a Pescara, domiciliari il sindaco D'Alfonso, indagato anche Carlo Toto, patron di Air One. La vittoria del PDL in Abruzzo, Veltroni, forte segnale di malessere, reagiremo alla sconfitta, il centrodestra dura le lezioni al PD. Fini, la Chiesa non fece abbastanza per contrastare le leggi razziali fasciste, il mondo cattolico, il presidente della Camera sbaglia. Volevano ricostruire la cupola di Cosa Nostra, neutralizzati 6 di nuovi boss, arresti e perquisizioni, Alfano, colpo senza precedenti. Candelotti dinamite in un grande magazzino al centro di Parigi, messaggio del fronte rivoluzionario afghano. Allarme di Confindustria, 2 anni di recessione, 600.000 posti in meno, Draghi, fase critica sulla crisi, incontro Tremonti-Bersani. Maltempo, il nord sotto la neve, dubefragio a Roma, città in tilt e quartieri allagati, Tevere e Aniene sotto controllo. Come giustamente osserva il Foglio, ci sono tre cose da dire sulla vicenda irachena, in particolare per Muntasser al-Zaid, che ha tirato le scarpe al presidente americano Bush. Innanzitutto libertà per questo giornalista, che oggi è stato sentito, che rischia 7 anni, ha ammesso, e non poteva essere diversamente, il lancio di calzature. Va lasciato però andare, osserva giustamente il Foglio, ormai anche Voltaire, con scorta armata degli americani, è arrivato a Baghdad per rimanere. Non condivido quello che dici, ma sono pronto a dare la vita per difendere il tuo diritto di lasciarmi, di lanciarmi le scarpe. Altra cosa, altra osservazione, se Mr. Muntasser avesse compiuto lo stesso gesto prima del marzo 2003, non ne avremmo mai sentito parlare, perché sarebbe stato scaraventato in qualche segreta di Saddam, eccetera, eccetera. E poi, è mai possibile che un Muntasser qualunque abbia il tempo di sfilarsi entrambe le scarpe e di scagliarle una alla volta contro il capo del mondo libero prima di essere bloccato? Ma qui entriamo in quelli che sono i meandri del potere iracheno. Quello che mi pare fondamentale dire è che se non ci fosse stato un minimo di libertà a Baghdad, molte di più di quella che c'era sotto Saddam Hussein, anche un gesto di questo tipo non sarebbe stato possibile. Sky TG24. Tangenti sul petrolio in Basilicata, in manette il numero uno di Total Italia. L'inchiesta di Pescara dopo l'arresto del sindaco indagato, il patron di Air One, Toto. Regionali Abruzzo, il PDL vince col 52% dei votanti, tracollo PD via l'autocritica. Crisi contro Tremonti Bersani, Draghi chiede nuove misure, pessimista Confindustria. Caso Englaro, interviene il ministro della salute Sacconi, vietare lo stop all'alimentazione. Mafia, maxi blitz, 94 fermi, il procuratore Grasso volevano riformare la cupola. Sparatoria per vecchi rancori nel Vibonese, 2 morti e un ferito grave a Briatico. Como, divisi i coniugi romano, gli assassini di Erba trasferiti in 2 carceri diverse. Fini contro la Chiesa, non si oppose alle leggi razziali, la replica non conosce la storia. Cinema, esce il Cosmo sul Como, la sfida natalizia di Aldo, Giovanni e Giacomo. Bene, bene, 800240024, giustamente Sky TG24 inserisce tra i titoli le ultime notizie dal fronte Luana Englaro, dove il ministro del welfare, Sacconi, dice niente stop all'alimentazione in ospedale, cioè nessun organismo, nessuna struttura del Servizio Sanitario Nazionale, nessuna struttura pubblica può togliere il sondino dal corpo di Luana Englaro. Questo nonostante una sentenza, come sapete, ultra confermata della magistratura. A proposito di politica, anche se questa è politica, la frase del giorno è in un'intervista di Marco Follini al Giornale. Marco Follini, responsabile comunicazione del Partito Democratico, che dice: eravamo partiti dal Lingotto, ci siamo ritrovati su un trattore a Montenero. Scendiamo dal trattore e cerchiamo di tornare su al Lingotto. Intanto il Partito Democratico se la prende con Bruno Vespa. Se la prende con Bruno Vespa perché? Perché ieri ha invitato Di Pietro e nessun esponente del Partito Democratico per commentare le elezioni in Abruzzo, e Di Pietro in questo caso dà manforte a Vespa, sentitelo. Noi stasera, con una scelta che credo giornalisticamente abbia un senso, già da molti giorni avevamo deciso di invitare un eminente esponente del centrodestra e il leader del partito che ha espresso il candidato, per la prima volta ha espresso un candidato ad un'elezione regionale, Di Pietro. Il Partito Democratico l'ha presa male, ha diciamo protestato perché? Per non essere, perché voleva essere anche lui in studio, e noi abbiamo fatto una scelta di fare un confronto a due. Ma ci viene tutte le sere. Abbiamo offerto un collegamento, non lo hanno rifiutato ritenendo inaccettabile che in studio ci stesse soltanto l'onorevole Di Pietro. Questo è, ci dispiace, ma vabbè, noi abbiamo deciso di fare un confronto a due e non sono due persone, diciamo, sorteggiate per scarpe. Grazie. Piovono pietre, anzi indagini, come avete sentito dai diversi titoli sia di Sky che del TG3 che dai nostri titoli sul Partito Democratico. Inchieste dappertutto, Basilicata e soprattutto Abruzzo, dove un uomo molto forte dal punto di vista politico, che è il sindaco di Pescara, ormai ex sindaco di Pescara, è stato coinvolto addirittura insieme a Toto in una vicenda di tangenti. Ci sono 5 inchieste su D'Alfonso. Sempre a proposito di Abruzzo, c'è chi grida al complotto. Veltroni, innanzitutto, che dice: le televisioni e i media di Berlusconi danno molto spazio a Di Pietro perché è facile creare l'oppositore Di Pietro contro Berlusconi. Berlusconi in questo modo ha gioco facile, sentite. Berlusconi adesso fa con Di Pietro lo stesso giochino che faceva con Bertinotti prima. Guardate le televisioni di Berlusconi, guardate i giornali della destra. Sono pieni di spazi anche magari aspramente polemici. Ma qual è l'obiettivo che Berlusconi ha da sempre? Quello di scegliersi l'opposizione. Teorie del complotto che sono anche di Costantini. Costantini è lo sconfitto del match con Chiodi per l'Abruzzo, sconfitto ma non troppo in realtà, perché insomma l'Italia dei Valori esce molto rafforzata da questo confronto. Anche lui pensa che ci sia stato una sorta di complotto ai suoi danni, addirittura ordito attraverso l'ex presidente della Regione Abruzzo Del Turco. Le interviste di Del Turco l'avrebbero danneggiato. Ma guardi, l'ex governatore ha avuto una visibilità sugli organi di stampa nazionali e regionali di gran lunga superiore alla mia negli ultimi 3-4 giorni di campagna elettorale. Adesso non so se questo suo desiderio di parlare sia nato dal caso o sia stato stimolato da qualcuno. Certo, davanti ai magistrati non aveva dimostrato tutta questa disponibilità. Mi è sembrata davvero singolare non solo la circostanza che lui abbia deciso di esternare la sua avversione nei miei confronti, che io personalmente ho percepito come un complimento, ma mi è sembrato anche singolare l'enorme visibilità e il grande spazio che gli è stato concesso sugli organi di informazione. Io le posso assicurare che negli ultimi 4 giorni sono stato sostanzialmente oscurato come candidato del centro-sinistra dalle esternazioni dell'ex governatore, che ovviamente rispondeva a logiche e a suggerimenti che erano e che sono lontani dalla mia parte politica. Vabbè, insomma, teorie del complotto che avrebbero danneggiato il Partito Democratico, l'Italia dei Valori. C'è sempre qualcuno con cui prendersela, si vince e si perde, i responsabili sono sempre altri. 800 24 00 24, c'è sicuramente un vincitore, Antonio Di Pietro, 15%, sana nei sondaggi, appare come il vero leader dell'opposizione, non c'è alcun dubbio. D'altra parte, ieri sera Porta a Porta dice: io faccio opposizione vera, sanguigna, non sono né carne né pesce come altri, indirizzato al Partito Democratico. Io credo che i cittadini abbiano scelto l'Italia dei Valori per una chiarezza del linguaggio, una determinazione dell'azione, un ruolo che svolge in modo chiaro e evidente, senza quelli che fanno né carne né pesce, un giorno sì e un giorno pure, una volta una parte e una volta all'altra. Io le cito testualmente le parole che oggi ha detto Veltroni per rilanciare il partito, perché si devono porre loro il problema all'interno. Veltroni ha detto: dobbiamo fare di più sulla questione etica. Allora, che è esattamente ciò che sta facendo l'Italia dei Valori. Allora non si può dire dobbiamo fare di più sulla questione etica e dobbiamo contrapporci a Di Pietro. Non ha senso, non ha logica. Da questo punto di vista Di Pietro non ha tutti i torti. Tre notizie, una buona per chi ci sta ascoltando dalla zona di Mestre, perché ci sono alcune date che verranno ufficializzate a giorni sul passante di Mestre, che verrà inaugurato il primo weekend di febbraio, l'8 di febbraio, anche se siamo ormai in addirittura d'arrivo, i collaudi, gli ultimi collaudi ci saranno il 19 dicembre. Dunque il passante di Mestre, opera incredibilmente importante per quella zona, ripeto, l'8 febbraio. E poi l'Olanda, tutt'altro argomento, che aveva in programma di aprire il proprio mercato del lavoro a Bucarest e Sofia, cioè la Romania e la Bulgaria, e invece ha fatto marcia indietro per paura dell'incremento della criminalità e per la crisi economica. Dunque l'Olanda che chiude le porte a romeni e bulgari. Andiamo a sentire invece un protagonista radiofonico di questi giorni che ho scoperto, si chiama Felice Pautasso, il poeta di Pavarolo, da una trasmissione Ho perso il trend, Radio 1, che fotografa perfettamente, come un editorialista, ma a modo suo naturalmente, la situazione in Abruzzo e i rapporti tra l'Italia dei Valori e Di Pietro. Sentite. Occorre una riflessione. Andiamo. Di Pietro dice sempre: e che ci azzecca? Che ci azzecca? E gli altri sparpagliati fancilecca. È tremendo. Non sanno che la vipera nel seno, la vipera nel seno, si scalda sì, ma poi ti dà il veleno. Ti devi liberare in tutti i modi. Doveva parare. Perché altrimenti vince sempre Chiodi. Alcune accuse sembrano davvero pesanti per l'ex sindaco ormai di Pescara, Luciano D'Alfonso. Viaggi, cene, vacanze, auto con autista per 3 anni, finanziamenti a Proloco, associazioni e contributi vari, anche elettorali. E sarebbero questi i favori che il patron di Air One, Carlo Toto, e il figlio Alfonso, che sono tra i 35 indagati dell'inchiesta di Pescara, avrebbero elargito all'ex sindaco di Pescara. Secondo Trifoggi, che è lo stesso procuratore capo dell'inchiesta su Del Turco, non sono state elargite grandi cifre, siamo nell'ordine di 200.000 euro. Viaggi gratuiti con l'Air One tra il 2003 e il 2006 per l'ex sindaco e i familiari, sulle tratte Malta e Venezia. Costo superiore a 28.000 euro. Pranzi di lavoro e ristoranti di Roma, 904 euro, e Pescara, quasi 11.000 euro. 3 anni di auto con autista a carico dei Toto, questo è abbastanza curioso, valore complessivo 72.000 euro. 7.000 euro per un contributo elettorale alle politiche del 2006. In cambio, perché poi questi favori, naturalmente, secondo gli investigatori, dovevano fruttare qualcosa. E secondo gli inquirenti, D'Alfonso avrebbe dato una promessa di una politica benevola per la Toto Spa, soprattutto per quello che riguarda i progetti di project financing per l'area di risulta dell'ex stazione ferroviaria. Ma ci sono altre inchieste. Subito gli ascoltatori da tutta Italia, Foggia, Modena, Milano, provincia di Salerno, Bergamo. Iniziamo dalla provincia di Salerno. Antonio, buonasera. Salve, buonasera. Dica. Senta, io no, una semplice considerazione. Sembra che da un po' di tempo a questa parte tutti i cattivi siano passati nell'area del centro-sinistra. Fino a qualche tempo fa erano tutti quanti nell'area del centro-destra. Era soltanto una considerazione che veniva fuori dal fatto che da... Ma sa, le amministrazioni locali, Antonio, nell'80% dei casi, come giustamente ha fatto osservare nei giorni scorsi Luciano Violante, sono amministrate dal centro-sinistra, per cui quando ci sono inchieste che riguardano rapporti tra le amministrazioni e gli imprenditori e l'imprenditoria, e gli affari, gli appalti, e per forza, insomma, è una questione di numeri. D'accordo, la ringrazio. Luigi da Milano, buonasera. Luigi da Milano. Luigi, ci sente? No. Pronto. Mi sente? La sento, dica pure. Una riflessione su quanto è stato detto dal vostro collega Ostellino, sì. Quanto ha anche appena detto lei. Con la liberalizzazione, la semplificazione legislativa, come... Che sono due cose diverse, liberalizzazione... No, la semplificazione legislativa. Sì. Chi ti garantisce che non si inizi alla primavera delle speculazioni edilizie, degli interventi malfatti, di rovinare il paesaggio del nostro bel paese? Un esempio semplicissimo, io viaggio per lavoro, vedo che ad esempio in Germania, in Francia, le zone industriali sono localizzate, in Italia sono costruite, sono i paesi, sono circondati da capannoni, e così anche altri interventi relativi alle infrastrutture, non vengono spesso, da noi non è mai stata data prova di buon senso nel costruire, nel fare determinati interventi. Dunque, secondo lei i vincoli, diciamo, di legge ci vogliono per impedire queste cose? No, assolutamente bisogna liberalizzare, ma parimenti ci vuole una diffusione della cultura e delle capacità. Sì, no, ma Luigi io sono d'accordo con lei, naturalmente. Il problema è un altro, che l'eccesso di legislazione che c'è in Italia, regolamenti, impedimenti, eccetera, non è che abbia impedito fino adesso queste speculazioni edilizie, la distruzione in alcuni casi del paesaggio, delle coste, per cui sa, la controprova non ce l'abbiamo. Quello che è sicuro è che l'eccesso di legislazione, come giustamente secondo me faceva osservare Ostellino prima, produce degli effetti molto perversi nel rapporto tra l'amministrazione pubblica, tra i politici, chi amministra la cosa pubblica, e gli imprenditori. Manca la trasparenza, c'è bisogno sempre di... è difficile fare un atto amministrativo, perché un atto amministrativo ha bisogno di 1000 passaggi e poi può essere soggetto appunto all'intervento di un magistrato. La ringrazio. Luigi da Foggia, buonasera. Buonasera, signor Giussani. Sì, Don Giussani è una persona molto diversa da me, ma comunque, insomma, molto... Va bene, comunque non mi ricordo nulla. Volevo solo chiedere se è lecito, insomma, che una maggioranza di governo esulti così tanto per... alla fine poi mi sembra che la percentuale di votanti sia stata del 52% in Abruzzo, no? Sì, i votanti 52%, sì, Luigi. Quindi penso che una sana maggioranza di governo non dovrebbe così esultare. Guardi, nelle democrazie, quelle mature, la percentuale di votanti più o meno è quella. Adesso, naturalmente, l'Abruzzo è un caso, ci sono diversi motivi. Certamente non è il maltempo il motivo, come ha detto ieri La Russa, o come hanno detto alcuni esponenti del centrodestra, per la scarsa affluenza al voto, almeno secondo me. Ma non c'è niente di cui secondo me scandalizzarsi. Può succedere che in contesti, in un momento particolare, per alcuni motivi specifici, ci sia un'affluenza al voto così bassa. Non è un indicatore nazionale, alle ultime politiche più o meno si è votato come in altre occasioni, in più dell'80%. Massimiliano ci chiama da Biella. Buonasera, Massimiliano. Sì, buonasera. Dica. Niente, volevo solo fare un'osservazione, nel senso che mi sembra che i politici cavalchino molto le emozioni del momento, nel senso che l'altro giorno c'è stato l'incidente per quel ragazzo che guidava con un tasso alcolico molto forte, sì. Dopodiché, visto che il tasso è 0,5, adesso sinceramente non so quanto fosse il tasso di questa persona, ma abbondantemente superiore a questo limite, lo abbassiamo a 0,2. Sì, Massimiliano, dire... spesso succede questo, quello che lei ci sta dicendo, cioè un incidente, un fatto che viene cavalcato dai politici appunto per arrivare a cambiare la legislazione. Lei ha perfettamente ragione, però in questo caso se ne parla da tempo di come intervenire sui limiti alcolici, sul tasso alcolico e sui controlli, se è giusto o no abbassarli. Qui c'è un provvedimento molto drastico, che è quello se uno beve non guida. Io sono abbastanza d'accordo, devo dire. Lei no? Faccio 50-60 mila chilometri all'anno. Sinceramente controlli negli ultimi anni sono stati fatti molti di più. Sì. Devo essere sincero, anche in autostrada le macchine vanno molto più piano, perché ci sono molti più controlli. Certo, certo. Non quanto sarebbe necessario, però sì, sono aumentati, però, non c'è dubbio. Sono d'accordo, ma siamo di nuovo al punto... Tipo, non so, se in autostrada uno sbaglia, vai 280 all'ora e si schianta, con ciò non mi sembra giusto abbassare i limiti in autostrada ai 90 all'ora. No, ma questo... ad esempio, in certe statali trovo altrettanto errato che ci sia magari la linea continua, limite dei 50 all'ora, in strade che sinceramente permetterebbero sorpassi e permetterebbero di viaggiare a veloci, pur stando in sicurezza, sì, permetterebbero di viaggiare comunque in altro modo, ecco. Guardi Massimiliano, però ogni volta che si propone qualcosa c'è sempre il vizio di dire no, ma bisognerebbe fare altro, i problemi sono altri, le strade, il modo di guidare degli italiani, questo dicevano alcuni ascoltatori prima. Sì, sicuramente ci sono anche queste cose, però restiamo al problema. È utile o no praticamente sostenere la tesi chi beve non può guidare? Secondo me, mi suggerisce un caro ascoltatore che ci segue spesso, è come per la legge sul fumo: se non si arriva ad una posizione drastica le cose non cambiano, e siccome molti incidenti sono provocati dall'alcol, forse con una posizione molto drastica, magari per un certo periodo, si può cambiare anche la cultura di guida nel nostro paese. 800 24 00 24, vi ricordo sempre il numero per intervenire. Andiamo a Bergamo da Carlo. Buonasera Carlo. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. In effetti io l'apprezzo di più quando mette in campo il suo lato ironico. Figuriamoci se la prossima volta lo scambiano per Don Abbondio. Non l'ho capita, ma va bene lo stesso. Perdona. Penso che il segnale di prima l'ha scambiato per Don Giussani. Ah, per Don Giussani, ah, già è vero. Ha ragione, mi era sfuggita questa cosa. Sì, non si ricordava il mio nome, ha detto Giussani. L'ho sentito, Giussani, ma è stata una cosa molto carina. Don Giussani è una persona un po' più su. Era una persona più su di me. Stavolta lo volevano far andare su, magari la prossima volta, visto che ogni tanto qualcuno la prende di mira, magari la scambiano per Don Abbondio. Va bene, la mia chiosa. Che mi voleva dire? Volevo dire questo, non è stato dato il dovuto risalto all'astensionismo in Abruzzo. Ma come non è stato dato risalto? È due giorni che non si parla d'altro, solo il 52% delle persone che sono andate a votare, commenti, analisi, solo di questo si parla, non si parla allora, solo di questo. Io personalmente, che non mi scandalizzo più di niente, io applaudo a questo astensionismo, perché io già sono fra questi, non vado a votare perché non mi sento rappresentato, e mi auguro di trovare fra non molto il nuovo messia. Qual è il nuovo messia? La cicciolina del caso, perché così so perfettamente, senza, o come dicevano i nostri padri, sine ulla dubitazione, a chi ho dato il voto. Perché in questo modo io quando vado a votare penso di votare una cosa e poi me ne trovo un'altra. Vabbè, lei Carlo è così pessimista ad oltranza. No, io sono ironico, non pessimista. No, certo, però voglio dire, non bisogna essere contenti di chi non va a votare. È un diritto assolutamente, anche non andare a votare. Secondo me il dato dell'Abruzzo dipende da alcuni motivi molto specifici, molto particolari della situazione abruzzese, non è un trend nazionale, abbiamo visto alle elezioni politiche che ha votato più dell'80% più o meno come negli anni scorsi, per cui attenzione prima di dire è un trend nazionale quello di non andare a votare, no Carlo? Mi perdoni se la interrompo. Allora, in una democrazia sì. che si reputi tale, sì. uno non va a votare se in ogni caso qualsiasi coalizione vinca si sente rappresentato. Okay? Questa è la sublimazione della democrazia. Certo. In questo caso io credo, sì. come succede a me, la gente non è andata a votare perché schifata, perché non vabbè, questo Carlo però è un'interpretazione, una sua interpretazione. Certo, sì. No, secondo me invece chi non va a votare, come dire, è indifferente al tipo di governo, in questo caso governo regionale, che ci sarà. Poi certamente ci sarà anche una componente di repulsione nei confronti della cosa pubblica e di chi amministra. Bene, la ringrazio. 800 24 00 24 e siamo molto contenti di ospitare un perdente che però è anche un vincente nello stesso tempo. Carlo Costantini, deputato dell'Unità dei Valori, che è stato candidato alla presidenza della Regione Abruzzo. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Costantini, lei però in un'intervista oggi, in diverse interviste rilasciate, io ho detto, iniziamo da una cosa, ho detto perdente però anche vincente, perché diciamo la verità, era una roba difficile, insomma, una roba in salita, non era facilissimo, no? Era veramente difficile, eravamo sotto di 15-20 punti 2 mesi e mezzo fa. E quindi essere andati sotto di 6 punti vuol dire aver fatto un grande recupero che però non è stato sufficiente. Ieri però lei non mi è piaciuto perché a Porta a Porta, lei è un grande comunicatore, una persona che parla molto bene, che ha idee abbastanza chiare, se l'è presa con Del Turco dicendo negli ultimi giorni sono stato oscurato, le interviste di Del Turco, ma ora lei da persona intelligente può davvero credere che le interviste rilasciate da Del Turco a qualche quotidiano abbiano influenzato il voto in Abruzzo? Non credo, no? Guardi, non le interviste in quanto tali, ma il fatto che le assicuro che nella cronaca locale abruzzese le interviste di Del Turco hanno occupato le 3 pagine dedicate alla politica regionale, che in qualche modo si sono sovrapposte alla discussione sui temi e sulle proposte della campagna elettorale in modo che io giudico quantomeno singolare, sia per il contenuto delle sue esternazioni, sia per il tempismo. Io ho espresso una mia valutazione, mi è sembrata un'iniziativa tesa quasi esclusivamente a ricordare in un momento decisivo, perché in quel momento stavamo consumando l'ultimo sforzo per il recupero, è stata quasi indirizzata a ricordare agli elettori di centrosinistra, guardate che la responsabilità è scaturisce da certe scelte, da certi comportamenti, da certi personaggi, insomma non mi è parsa casuale, ovviamente è un'interpretazione mia che può essere anche sbagliata, evidentemente. No, è quest'idea però è che stata una coincidenza singolare la sua decisione di esternare, perché l'ultima esternazione risaliva a 2 mesi fa in una trasmissione Porta a Porta, lui ha deciso di esternare mercoledì, giovedì, e la sua esternazione è stata amplificata dagli organi di stampa che hanno di fatto oscurato gli argomenti della campagna elettorale dedicando tutto lo spazio a lui. Probabilmente gli abruzzesi, anzi certamente gli abruzzesi vogliono dimenticarlo e dimenticare la sua esperienza di governo, e sempre secondo il mio modestissimo avviso negli ultimi giorni avrebbero voluto più spazio ai programmi e ai candidati presidenti. Però insomma queste sono cose che succedono in una campagna elettorale, anche perché i giornalisti non è che vanno a sentire Del Turco perché c'è una trama dietro, un complotto. I giornalisti fanno lavoro, quello è il loro lavoro, quella è la notizia, giustamente i giornalisti. Ma lei davvero pensa che Del Turco si candiderà col PDL? Così le faccio fare una previsione, come ha un po' lasciato trapelare nell'ultima intervista, anche a noi ce l'aveva detto. Davvero lei crede questo? Lo crede possibile? Ma io lo credo possibile, lui ormai da tempo manifesta simpatie per il PDL, lei non dimentichi che Berlusconi è stato il primo a rappresentargli la sua solidarietà immediatamente dopo l'arresto, era all'estero credo a Parigi o a Londra, e poi c'è stata una fila di parlamentari del PDL che sono andati a trovarlo, il collegio difensivo suo nella trasmissione Porta a Porta era costituito da parlamentari del PDL, insomma è sbocciata una simpatia reciproca che potrebbe anche sfociare una candidatura del PDL. Senta, lei ha sostenuto oggi in un'intervista, anche questo volevo sviscerare, che sostanzialmente alcune parti del PD o del PD l'hanno boicottata. Che significa? Ce la vuole spiegare? Anche qui c'è una tesi dietro che magari agli elettori appare un po' misteriosa. No, vabbè, io in generale nei confronti... Qualcuno del partito... nel PD ha scelto di perdere, così, virgolettato su un'intervista oggi a Riformista, se non sbaglio. Sì, guardi, cioè, ci sono dei dati davvero ingiustificati e ingiustificabili. C'è stato il crollo in alcune grandi realtà urbane, penso per esempio alla città di Chieti, alla città di Pescara, che sono le città più importanti. Lei considera che abbiamo perso di poco più di 30.000 voti, e quindi un... A livello di coalizione, sta dicendo, o a livello di, no, a livello di singolo, di candidato presidente. Sì, anzi, voglio anche correggere una notizia che è stata diffusa dal responsabile enti locali del Partito Democratico, che oggi avrebbe dichiarato che io ho preso meno voti delle liste, io ho preso 17.000 voti in più delle liste come candidato presidente. Ma al di là di questo... No, ma questo è importante, perché era stato detto una cosa di questo tipo, come se la sua candidatura fosse più debole di quella, no, di no, quella no, delle no, liste. No, io ho preso come candidato presidente 17.000 voti in più delle liste, quindi ho preso molti più voti delle liste. No, devo dirle che in alcune realtà il PD è andato davvero troppo male, cioè è andato talmente male da farmi dubitare dell'impegno effettivo. Le cito l'esempio di Chieti, della città di Chieti, anche di quello di Pescara. Cioè a Chieti c'è un parlamentare importante del Partito Democratico, c'è un'amministrazione comunale a guida PD, ci sono assessori, consiglieri, decine di militanti, centinaia di dirigenti, e abbiamo preso il 12%, probabilmente non si sono votati nemmeno i dirigenti del PD. Cioè ci sono alcuni risultati in alcuni pezzi di territorio della nostra regione che secondo me esprimono un dato che va di gran lunga al di sotto anche di qualsiasi giustificazione legata all'astensionismo. Quindi forse qualcuno ha deciso di lavorare poco, non si è impegnato, non ci ha creduto. In linea di massima le dico che non tutti hanno creduto alla possibilità di questa rimonta. No, ma questo era evidente anche nelle settimane passate. Una parte del Partito Democratico non è che aveva gradito molto il fatto che lei fosse il candidato alla presidenza. Senta, un'altra cosa riguarda quello però che è accaduto nelle ultime ore. Ci sono due cose molto diverse, le inchieste sono diverse, però da una parte ci sono stati gli arresti in carcere, addirittura ripeto, inchieste diverse, però i reati non sono molto diversi, non sono molto lontani. Nel caso di Del Turco, carcere, anche duro, nel caso di D'Alfonso, arresti domiciliari. Io non vorrei carcere per nessuno, però non c'è un trattamento diverso secondo lei, no? Dovrei conoscere gli atti processuali. Certo. So che ieri ho sentito in televisione, ovviamente non ero a conoscenza di questa circostanza, che D'Alfonso si era già fatto sentire dal PM, aveva già dichiarato e rappresentato la sua disponibilità a dimettersi. Quindi probabilmente questi aspetti, questa disponibilità hanno inciso sulla graduazione della misura cautelare e hanno convinto il GIP a concedere gli arresti. Queste vicende hanno influito sul risultato secondo lei, anche se poi non è che si conosceva prima? Guardi, noi non lo conoscevamo, però lui lo conosceva, e quindi essendo il segretario regionale del Partito Democratico probabilmente ha vissuto queste ultime settimane con un po' di imbarazzo, anche con un po' di patema d'animo, ma io in questo caso non mi sento di colpevolizzarlo affatto. Posso tranquillamente comprendere la sua condizione personale. Vabbè, un dipietrista un po' diverso lei, non è così giustizialista come dice Del Turco allora, insomma. No, non è questione di essere giustizialisti o non giustizialisti. Certo, non posso rimproverare ad una persona che sul piano umano sta vivendo una vicenda così grave il fatto che non abbia fatto la campagna elettorale per me, insomma sarebbe davvero un paradosso pretendere questo. Poi le responsabilità penali le accerteranno i magistrati nei processi, e certamente c'è una questione morale che pesa come un macigno. Cioè secondo lei l'amministrazione cittadina di Pescara è stata segnata, nonostante il consenso che ha avuto D'Alfonso, che è stato anche cospicuo nelle ultime elezioni, molta gente che io conosco in Abruzzo votava per il PDL alla Camera e al Senato, però c'erano anche le elezioni comunali, e invece votava per D'Alfonso, cioè aveva un consenso trasversale D'Alfonso, no? Non c'è dubbio. Si è manifestato nel corso di questi anni un ottimo amministratore. Se è accaduto quello che è accaduto vuol dire che non avrà avuto una particolare considerazione rispetto alle regole, rispetto alle norme. Io in qualche occasione ho avuto anche la possibilità di contestarglielo quando ero consigliere comunale insieme a lui nella precedente consigliatura con lui sindaco, però io non conosco nel dettaglio, anzi devo dirle che non conosco nemmeno a livello superficiale gli atti dell'inchiesta. Quindi davvero c'era questo rapporto stretto con Carlo Toto di Airone, come si dicono, lei lo percepiva oppure no? O si diceva, al di là delle singole... Guardi, loro sono, credo che siano anche concittadini, sono tutte e due di Manopello, o di Letto Manopello, e quindi sono due persone che si conoscono da tantissimo tempo. Un'ultima cosa, Costantini, lei resta in Abruzzo perché ieri Di Pietro mi è sembrato di capire che la sua incertezza non piace molto al leader dell'Italia dei Valori, cioè vorrebbe forse Di Pietro che lei rimanesse a fare l'opposizione in Abruzzo e non invece in Parlamento. Guardi, io sto riflettendo, la mia non sarà una riflessione solitaria, chiaramente è una riflessione che condividerò con qualcuno. Devo tuttavia rappresentarle che per fare il leader dell'opposizione occorrono due prerequisiti. Il primo requisito è essere una persona che unisce la coalizione. Il secondo prerequisito è quello di essere un leader riconosciuto da tutti i partiti che costituiscono la coalizione. Io in questo momento devo ancora parlare con gli amici del Partito Democratico e con altri. In questo momento sul piano personale non mi sento di poter rappresentare nessuno di questi due requisiti, nel senso che c'è un partito della coalizione che ha deciso pesantemente di non votarmi e come fatto conseguenziale ho dovuto anche prendere atto del fatto che la mia candidatura ha diviso in parte, se non i partiti, un partito, e quindi io non è che posso autodefinirmi ed autocandidarmi al ruolo e alla funzione di leader dell'opposizione, occorre il consenso anche per fare questo. Io comunque non lo escludo, sto facendo una riflessione che non è una riflessione solitaria, sentirò anche altri esponenti. Pausa di riflessione, mia impressione, la ringrazio Costantini per essere stato con noi, la mia impressione è che lei, diciamo, tornerà, resterà in Parlamento, questa è la mia impressione, per carità, tutto il diritto di farlo. La ringrazio, 19.55 e 45, 800 24 00 24, andiamo a Modena, Alessandro, buonasera Alessandro. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Senta, volevo fare una considerazione riguardo alla pioggia di avvisi di garanzia che stanno piovendo sul centro-sinistra. E arresti, non solo avvisi di garanzia, arresti. E arresti. Direi che a questo punto, insomma, la magistratura sta risalendo la china, nel senso che non mi sembra che adesso si possa dire che è tutta di sinistra, ma sta quantomeno guadagnando, direi, in considerazione da parte anche del centrodestra. Insomma, mi sembra a questo punto una cosa buona. Ecco, uno spunto di riflessione, insomma, sembra che... Sì, mi sembra un buon spunto di riflessione, Alessandro. Andiamo a Firenze. Mirko, buonasera. Non c'è. E allora andiamo a sentire un altro ascoltatore, Angelo da Verona, eccoci qui. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Senta, mi riallaccio tra l'altro a quello che diceva l'ascoltatore poco fa, allora che i giudici che erano stati presentati sempre come i fautori del partito giustizialista, tra l'altro questo termine molto brutto che abbiamo solo in Italia, io direi che il centrodestra in fin dei conti fa una, diciamo, una campagna mediatica molto favorevole adesso ai giudici, perché chiaramente stanno lavorando sull'opposizione, stanno arrestando. Ma non mi pare che ci sia una campagna pro giudici o comunque forza giudici da parte della maggioranza, perché ci sono indagini sul Partito Democratico, a parte qualche eccezione, i soliti Gasparri, sì, eccetera, ma non mi pare che... Sì, però c'era una campagna quando i giudici andavano... arrestavano, comunque incriminavano, sì, degli amministratori di centrodestra, c'era una campagna contro i giudici, contro la sinistra, la Spectre, era tutto complotto, no? Su questo non c'è dubbio. Bene, 21 minuto, TG5. A Potenza arresti eccellenti nell'inchiesta sugli appalti per l'estrazione del petrolio. Arrestato l'AD della Total Italia. Richiesta anche per un deputato del PD. Bufera sul sindaco di Pescara per un giro di presunte tangenti. Nei grandi magazzini Printemps nel centro di Parigi trovati 5 candelotti di dinamite senza innesco, l'azione rivendicata da uno sconosciuto fronte rivoluzionario afghano. Gianfranco Fini definisce un'infamia le leggi razziali, nessuno si oppose, nemmeno la Chiesa. Il Vaticano, accuse infondate, polemica dei parlamentari cattolici. Confronto tra Tremonti e Bersani sull'economia del paese, fronte comune contro la disoccupazione, Confindustria, posti di lavoro a rischio. Nord-ovest paralizzato dalla neve, rischio valanghe e strade interrotte, allagamenti alla periferia di Roma, Bertolaso, il peggio è passato. In Sicilia decapitata la nuova mafia, i capi delle famiglie palermitane volevano ricostruire la nuova cupola, Pisano, lo Stato è sempre più capace. Per Natale mangiate italiano, il ministro dell'agricoltura Zaia lancia lo sciopero dell'ananas. Cibi esotici, meglio i nostri prodotti, sicuri e di qualità. Va bene, sentiamo anche TG1. Tremonti annuncia risorse per il lavoro, Draghi ora misure globali, Confindustria 600.000 posti in meno, in studio la presidente Marcegaglia. Tangenti e petrolio, in manette l'amministratore Total Italia, ha coinvolto deputato PD, appalti a Pescara, arrestato il sindaco. Eluana, il ministro Sacconi, illegale, stop alimentazione negli ospedali, l'avvocato della famiglia, atto che non vale niente. Leggi razziali, Fini, infamia italiana, neppure la Chiesa si oppose, Veltroni, verità storica, dissensi tra i cattolici. Pioggia e neve al nord, isolati in molti paesi nel Cuneese, allerta a Roma per l'Aniene, Bertolaso, alto rischio, valanghe. Il cosmo sul Comò, ovvero il mondo a portata di Aldo, Giovanni e Giacomo, nel nuovo film appena un po' bene, più eravamo con Angelo da Verona, allora Angelo. In effetti la mia domanda poi era un'altra, cioè a noi cittadini interessa poi relativamente, guardi, il centro-destra o il centro-sinistra, a noi interessa avere degli amministratori che siano persone oneste e che possibilmente non, diciamo, prendano anche degli stipendi che siano analoghi a quelli di tutti gli altri paesi occidentali, cosa che invece non accade. Ora, purtroppo il problema è questo, che i giudici sono sempre stati tirati, no, dalla giacca, soprattutto a mio modesto parere da parte della destra, no, perché sono 10 anni che si parla di complotto, di toghe rosse, no? Ecco, immagina lei cosa succederà quando la riforma preannunciata da Berlusconi di mettere i pubblici ministeri, in fin dei conti, fanno uscire dalla magistratura, farli diventare degli amministratori sotto il controllo della politica. Beh, bisognerà vedere se si andrà verso questa direzione. Ecco, ma questa posizione, oppure quello che dice la Lega di eleggere i giudici andando contro proprio Montesquieu. Guardi, non lo dice solamente la Lega, lo dice per esempio il presidente della Corte d'Appello di Milano, Greghi, per esempio. Sì, cioè, però il che non toglie che andiamo contro l'Occidente, andiamo contro. Ma veramente gli Stati Uniti che sono in pieno dentro l'Occidente, e lì non tutti i giudici, sì, ma una parte dei giudici vengono eletti. Certo, è un altro sistema. Sì, però noi non siamo gli Stati Uniti, guardi, loro sono calvinisti, Noi sì, d'accordo, ma sempre Occidente, insomma. Delle inchieste sociologiche, le ricordo, Barnfield negli anni 50 parlò dell'Italia come un paese di familismo morale. Vabbè, adesso non andiamo sulla filosofia, Angela. No, non è sociologia. No, sì, sociologia, morale, filosofia, non parliamo di massimi sistemi. Strutturalmente amorale, no? In cui vabbè, d'accordo, dove vuole arrivare lei? Voleva arrivare che se i pubblici ministeri non hanno più l'obbligatorietà dell'azione penale, e il governo può indirizzare il pubblico ministero a un certo tipo di azione, sì, si immagina se colpisce un uomo politico, subito si dirà che è perché è stato indirizzato chiaramente dalla parte politica opposta, no? Cioè, se già lo fanno adesso, che i giudici sono in fin dei conti indipendenti, fanno un concorso, non sono stati eletti da nessuno, quando avranno una giacca politica, no? Si immagina cosa succederà, sarà la fine di questo paese. La ringrazio, Angelo, io non la vedo così nera, anche se certamente in un paese come il nostro in questo momento l'elezione diretta dei giudici è un'utopia rivoluzionaria impossibile da realizzare. 26 minuti, sentiamo anche la 7, titoli. Arrestato il numero 1 di Total Italia e accusato dalla procura di Potenza in un'inchiesta su presunte tangenti per l'estrazione di petrolio in Basilicata, coinvolto anche un parlamentare del PD. Bufera giudiziaria anche a Pescara dopo l'arresto del sindaco, sempre del PD, D'Alfonso, tra gli indagati il patron di Air One, Carlo Toto. La netta vittoria del centrodestra alle regionali in Abruzzo spinge Veltroni all'autocritica. Il PD dice deve fare di più. Di Pietro, il PD è ridotto ai minimi termini. Adesso siamo al maltempo, come vedete. La regione Piemonte chiede lo stato di emergenza. La neve isola 4.000 persone in Val d'Aosta. Roma, Tevere, Aniene sotto osservazione. Forse domani miglioramento al centro-nord. Da ultimo esce venerdì in 650 sale italiane il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Bene, ultimo titolo uguale per i telegiornali in Italia. Il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. L'abbiamo capito. E andiamo a sentire Emiliano che ci chiama da Roma. Buonasera. Salve, buonasera, grazie dottor Cruciani per lo spazio. Volevo permettere, io sono un elettore di centrodestra. Dunque, su quanto è successo in Abruzzo sono però, diciamo, un'idea un po' controcorrente, perché devo dire che secondo me, diciamo, con i dati alla mano, da un punto di vista proprio numerico, statistico, non credo proprio che si possa parlare per sconfitta della sinistra, nel senso che rispetto alle ultime politiche, al dato quindi nazionale o comunque locale dell'Abruzzo proiettato in chiave di elezioni politiche, la sinistra fondamentalmente, se si fa la somma dei voti, guadagna qualcosa. Non mi sembra che venga ridimensionata. Guardi, io non so, cioè, che dati, io non so che dati abbia lei Bano, ma davvero non è così. Scusi, allora forse io sono rimasto ai dati di ieri sera, ma tra la somma dei voti che ha preso Italia dei Valori e il Partito Democratico e la sinistra, diciamo, le varie liste di sinistra autonomista o radicale, diciamo così, sì, ma detto arriva che... al 43%, supera il dato nazionale delle ultime politiche. Nel complesso, semmai bisognerebbe ragionare sul riposizionamento del voto all'interno della sinistra. No, ma infatti si parla di sconfitta del Partito Democratico, non è che si parla... Però questo testimonia che non c'è un discorso di astensionismo. La causa non può essere astensionismo, perché gli elettori del Partito Democratico, fondamentalmente, se è vero che c'è un riposizionamento di voto, sì, vuol dire che sono andati a votare, semplicemente hanno votato per altri schieramenti. Guardi, Emiliano, lei ha ragione nella misura in cui si considera l'astensionismo non diretto, non un astensionismo solo di elettori del Partito Democratico, ma insomma un astensionismo trasversale, come poi è nei fatti. Infatti si parla di sconfitta del Partito Democratico, poi le elezioni, sa, si vincono e si perdono anche per un voto, e si parla di vittoria e di sconfitta, perché certo, oggi il nuovo presidente della Regione Abruzzo è un esponente del centrodestra, fino a poco tempo fa era centrosinistra, e l'Abruzzo era una regione fondamentalmente di centrosinistra, anche se è un po' l'Ohio italiano, qualcuno oggi ha titolato, cioè è una regione che è stata sempre un po' ballerina da quando nelle due volte in cui si è votato per elezioni politiche, no? Ecco, però voglio dire, la difesa che alcuni elementi esponenti del PD fanno sull'astensionismo, sì, credo che sia infondata proprio da un punto di vista statistico. Sì, sì, sì, no, lei su questa ragione, ecco, l'astensionismo è stato trasversale, non c'è dubbio. Ecco, poi vorrei esprimere un altro concetto, cioè sulla vittoria, tra virgolette, di Di Pietro, sì, devo dire, da elettore di centrodestra sono un po' così spiazzato, perché mentre nei mesi precedenti, quantomeno, qui faccio un'osservazione, mi permetta, di carattere un po' più generico, mentre il PD, voglio dire, ha evidenziato, come dire, un aspetto elaborativo di proposte o di propensione, diciamo, a elaborare delle proposte nuove sulla scuola, sulla sanità, sulla giustizia, sull'economia e quant'altro, io sinceramente sulla lista sul partito di Di Pietro e da Di Pietro ho sentito solamente parlare di del tema della giustizia, della legalità, moralità, chiamiamolo così. Non ho idea di cosa proponga quel partito su, non so, economia, finanza, tutela del, non so, precariato. Sì, Emiliano, diciamo che la ringrazio, questa è un'osservazione interessante che riguarda le proposte di Di Pietro. Poi quando si parla con Di Pietro di questo, Di Pietro dice sempre: sì, sulla giustizia vogliamo fare 1, 2, 3, 4, 5, siamo a favore delle infrastrutture, di questo, di quest'altro. Poi magari escono fuori le proposte concrete, però certamente non sono il cavallo di battaglia della proposta politica di Pietrista. Cambia la politica anche in Abruzzo, per esempio, dove ci sarà un gruppo unico di maggioranza, è una grande novità nel prossimo Consiglio regionale dell'Abruzzo. Ci dovrebbe essere, per quello che riguarda la maggioranza, un gruppo unico, 6 per quello che riguarda l'opposizione. E in tutto dunque 7 gruppi consigliari contro i 19 della precedente consiliatura. Questa sicuramente è una novità. Ubaldo da Teramo, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica. La ringrazio. Grazie a lei. Niente, io sono intervenuto perché stavo ascoltando la radio mentre tornavo da Pescara. Io sono di Teramo e volevo dire, insomma, sono un socialista e ho seguito tempo fa la campagna di Del Turco qui a Teramo come segretario cittadino. Sì. Innanzitutto voglio dire che... Il sindaco della sua città è stato eletto, è di Teramo, no? Chiodi è stato eletto. Sì, Chiodi, conosco, sono buon amico di Chiodi, sì, il quale è una ottima persona. Ieri ha ricevuto i complimenti pure da Pannella, dicendo conosco Teramano, Pannella si sa. Pannella, no? Anche lui Teramano, quindi va bene. No, Chiodi tutto in famiglia. Insomma. Tutto in famiglia, ma intanto è riuscito a essere il primo presidente della regione di questa città. Senta, i socialisti come si sono orientati in queste elezioni? Guardi, che non a caso i socialisti... Io dico da ignorante. No, se siamo 3 ci dividiamo in 4, quindi... Erano all'interno del centro-sinistra, in qualche lista? No, eravamo di qua e di là, perché c'è stata una lista che si chiama Liberale Socialisti Abruzzo che ha appoggiato Chiodi. Ha appoggiato Chiodi perché non era possibile appoggiare in questa circostanza il centro-sinistra. Perché c'era un candidato all'Italia dei Valori. Prima di tutto perché si sapeva che c'era quello d'Italia dei Valori e poi il Partito Democratico, tra l'altro, non ci ha accettato già a livello nazionale l'anno scorso, quindi figuriamoci perché noi dovevamo piegarci qui solo perché dopo non hanno mai avuto nessun riscontro con noi, no? E poi tra l'altro la sconfitta del Partito Democratico era nei fatti, nel senso il calo, perché loro si sono solo adeguati a un candidato dell'Italia dei Valori, cioè non è che l'hanno scelto questo candidato insieme, dice va bene alla coalizione noi cerchiamo un candidato, cioè Di Pietro lei dice ha imposto un nome, è stato imposto perché Di Pietro ha pensato solo esclusivamente al suo aumento di voti. Ha ottenuto un risultato però da questo punto di vista. Ma quello è Di Pietro, è scalto. Di Pietro è l'interfaccia del populismo di Berlusconi per la destra. È un animale politico, diciamo la verità. Sì, Di Pietro, sì, è un animale politico. Anche lui, insomma, quasi abruzzese, Pantone di Bisaccia sta lì ai confini. Cioè, voglio dire, ha fatto questa scelta fregandosene altamente, approfittando della debolezza del Partito Democratico, in questo caso in Abruzzo, che non ha minimamente poi tra l'altro difeso del Turco. Io le voglio raccontare solo un fatto: del Turco, quando è venuto a terra, mi ha seguito tutta la campagna elettorale, lui ha parlato molto spesse volte. A Pescara, quando ci fu una... Cioè lei mi sta parlando della campagna elettorale del 2005, sì. Quando ci fu a Pescara Uniti nell'Ulivo, una manifestazione dove anche lo SDI allora partecipava, lui alla fine dell'intervento, molto duro sulle prebende, sulle cose che succedevano, quando finì il discorso mi disse: ma tu mi verrai a trovare se oggi domani qualcuno, insomma, mi succederà qualcosa? Io dissi: Presidente, continua così perché sicuramente, insomma, sta sulla strada giusta. Forse era una cosa premonitoria di Del Turco, di questa, poi per quello che è successo. Chissà Ubaldo, la ringrazio di questo racconto. 20:16, cose abruzzesi però che interessano in questo momento tutta l'Italia, certamente, perché si è votato, come sapete, con questi risultati. Iginio da Treviso, buonasera. Buonasera a lei, Luciani. Dunque, argomento, il vino. Allora, secondo me mettere quel limite che vogliono mettere adesso è controproducente. Intanto si scateneranno delle lobby, dei baristi, dei ristoratori, e sappiamo come potrebbe andare a finire. Che c'entrano le lobby dei baristi e dei ristoratori, mi scusi? Sono loro che a un certo momento forniscono le bevande alcoliche. Che c'entra, scusi? Perché si dovrebbero scatenare, mi spieghi? Per opporsi, lei dice, per opporsi a questo provvedimento? Anche. Poi io piuttosto sarei propenso a una cosa, ogni tanto quando si sente che fermano della gente si trova un tasso alcolico che è addirittura 4 volte superiore all'attuale limite messo. Bene, io verso questa gente inaspirerei le pene, cioè in un certo momento viene beccato con un tasso alcolico di 4 volte superiore, 2 milligrammi ogni litro, per dire, ecco, questi qua io ci metterei già quasi il tentato omicidio. Se poi addirittura arrivano disgraziatamente a uccidere una persona, io lì, ma perché omicidio colposo? Cioè omicidio, sì, colposo, non è colposo, lì diventa o preterintenzionale o addirittura volontario, quindi accresciamo le pene, perché insomma a un certo momento con l'attuale limite che vorrebbero mettere, insomma uno mangia un boero e già è quasi fuori, insomma io conosco di gente, io stesso. Cioè lei dice non c'entra niente abbassare il tasso alcolemico, non può portare inasprire le pene con gli attuali tassi alcolemici, insomma. Con i quali tassi alcolemici, se uno sta in quei limiti un bicchiere di vino lo può bere. Poi che brutto termine, tasso alcolemico, una cosa bruttissima. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Però io inasprirei semmai le pene, perché quando sento dire che è un omicidio colposo, è quando esageratamente uno cade in un'impalcatura e certamente non lo vuole fare, ma quando si mette alla guida di una macchina, di un camion, di quello che è, insomma sta già in partenza il rischio che corre per sé e per gli altri, quindi è lì che io... Ho capito perfettamente, la ringrazio. Da Iginio da Treviso a Gino dalla provincia di Pisa, buonasera. Sì, buonasera. Pronto? La sento, dica. Volevo intervenire anch'io in merito a questa riduzione del tasso alcolemico nel sangue. E io dicevo questo, anche secondo me, come l'ascoltatore precedente, non serve assolutamente a nulla ridurre il tasso alcolemico, in quanto è stato ridotto più volte, ma gli incidenti stradali sono, anziché diminuiti, sono aumentati. Io penserei invece a una norma più restrittiva in fase di costruzione dei veicoli, in quanto si potrebbero dotare di apposite apparecchiature che per avviarsi il conducente deve per forza e fare un test psicoattitudinale nella maniera che il veicolo, se il conducente non è in condizione di guidare o che abbia bevuto o che si sia drogato, in qualunque caso il veicolo non si avvia e così si previene gli incidenti. Solo questo probabilmente non verrà mai fatto. Beh, mi sembra complicata dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista... immagina una cosa tipo quella che c'è in alcuni camion oggi, no? E faccio per l'appunto, se sono sempre in sul linea... Sul controllo, non sull'alcol, sul controllo dei chilometri, diciamo. Però io non so come si possa fare con il tasso alcolico dei guidatori, insomma. Francamente, mi pare difficile, o no? Senz'altro è una cosa che non sarà semplice. Comunque tecniche di questo genere ci sono già per altre cose, naturalmente. Quindi vabbè, vedremo. Faccio il camionista. Lei che dice, si può fare una cosa del genere? Si potrebbe tranquillamente fare. Ma lei beve? Io non bevo assolutamente, quando guido non bevo. Nemmeno un bicchiere? Nemmeno un bicchiere. Mezzo? Non bevo. Una birretta, no? Io quando sono a lavoro non bevo né vino né niente. E che consigli, che consigli darebbe? Di non bere nemmeno mezzo bicchiere? Di non bere nemmeno mezza birra? No, quando uno guida non deve bere. Quando uno guida allora non deve bere. Ma io sono uno e siamo tanti a giro per il mondo e ha visto che gli incidenti succedono sempre. C'è chi è responsabile di più e chi è responsabile di meno. Per prevenire, in questo caso, secondo me, avrebbe un costo grosso modo, per quello che ho potuto capire leggendo i giornali specialistici, sui 4-5 mila euro. Beh, non è poco. Mezzo. Dove si trova lei, Gino, in questo momento? Dove si trova in questo momento? In questo momento sono fermo davanti al supermercato, per dire la verità, in auto fermo, sono al telefono, mi sono fermato. Ah, non è nel suo camion? Attualmente no, sono in festa oggi. E quanti chilometri fa, diciamo, al mese lei? Io, diciamo, faccio sui 10-12 mila chilometri al mese. Beh, tanti, eh? In media quant'è? 400 chilometri al giorno? 500 chilometri al giorno? 500 chilometri al giorno. E dove va di solito? No, nulla. Noi facciamo un lavoro di movimentazione terra con ribaltabile locale qui nella Toscana, non fuori la Toscana. La ringrazio, Gino. Capito. Grazie a lei di averci chiamato. Raffaele è un imprenditore campano che saluto, buonasera. Buonasera. Eccoci qui, che oggi ha comprato mezza pagina sul giornale. Pare che questa pagina gli sia stata rifiutata da altri giornali, tra cui l'Unità e Repubblica, ma adesso ce lo spiegherà. Vi leggo quello che c'è scritto. Cara sinistra, tra parentesi Walter, dopo 30 anni sei riuscita a non farti dare il mio voto, noto con piacere... punto esclamativo che persisti su questa strada. Complimenti. Cincinnato 2008 @live.it è l'indirizzo mail che c'è scritto in questa pagina. Abbiamo in onda diversi ascoltatori, naturalmente, però insomma voglio capire che significa questa pagina, questa mezza pagina comprata su un giornale. Innanzitutto, lei è un imprenditore campano. Altre volte è stato protagonista di iniziative simili, ma lasciamo perdere. Cos'è che l'ha delusa? Lei è un elettore di centrosinistra? Sì, e io sono cresciuto con certi ideali, con certi valori che oggi non si riscontrano più nella sinistra, e ci sta un problema che il segretario del partito del PD non vuole ammettere che c'è una questione morale, è una questione di etica. Faccio un esempio. Non è possibile che dopo che in mezza Italia ha detto al senatore e al deputato Villari di dimettersi da presidente della commissione vigilanza RAI, lui se ne è uscito candidamente che non si è dimesso perché nessuno gliel'ha chiesto ufficialmente. Cioè, lei, secondo lei c'è una mancanza di guida nel Partito Democratico, questo ci vuole dire? Esatto, e infatti Veltroni deve prendere atto di questo problema morale e agire. Si è formato un nuovo partito con delle regole ben precise, però l'unica regola che si è adottata è quella dell'elezione del segretario, dopodiché non si è mosso più nulla. Senta, ma insomma, addirittura comprare mezza pagina su un giornale, ma è vero che gliel'hanno rifiutata questa mezza pagina sull'Unità o sulla Repubblica? Sì, ma sia l'Unità che Repubblica hanno rifiutato di pubblicare, forse perché non lo so, hanno paura di non bisogna dimenticare, non bisogna mai disturbare il manovratore. Non lo so, ma quanto costa comprare mezza pagina su un giornale? Diciamo che parecchie migliaia di euro. Ma no, non sia così generico, Raffaele. No, che ne so, 10.000, 15.000, 20.000, 30, 40. Giornali tipo Repubblica che mi hanno chiesto anche 15.000 a 20.000 euro. Vabbè, ma il suo voto è perso per sempre? No. No, io anzi, la mia è uno sprono a Beltrone, ma se no non l'avrei fatto. Io sono di sinistra, però... Beh, imprenditore, è un imprenditore qualcuno... in che settore, in che ramo? Trasporto, nel settore trasporti. Però mai avrei pensato che qualche anno fa che sarebbe, cioè, sarebbe capitato che non ho votato. Cioè, di che... No... Punto. Mai avrei pensato che di non votare la sinistra. Non ho votato manco adesso perché non ce l'ho fatta votare. Però Non ho capito la sua delusione da che cosa viene, cioè dal fatto che non c'è una guida, che Veltroni c'è, è un problema di questione morale. No, poi c'è un problema di guida che Veltroni non si deve decidere, o altrimenti è meglio che coltiva la sua seconda passione, che è quella là della missione missionaria in Africa. Ma la questione morale? La questione morale è che ci sta gente che anche a dispetto dei santi rimane incollata alla poltrona, tipo i vertici campani, tanto per rimanere in Campania. Vabbè, ho capito. La ringrazio. Bene, andiamo in provincia di Bergamo. Alberto, buonasera Alberto. Buonasera, premesso dica. Che non ho capito niente di quella mezza pagina comprata, francamente. Io nemmeno, volevo capire, non ho capito niente nemmeno io. Se non l'avesse comprata forse avrebbe risparmiato dei soldi, visto che pure secondo me, però, che vuole fare? Abbiamo provato a capire cosa... Ognuno fa quello che vuole. Ero incuriosito da quella mezza pagina, e proviamo a sentire... Il mio intervento è... Grande delusione. Era un po' diverso, era sui 65 anni, età pensionabile per le donne. Sì. Premesso che anche qua io con il ministro Brunetto non sono d'accordo quasi su niente. Sì. Però questa proposta qua l'avevo sollevata anche in un'assemblea sindacale, con una buona dose di contestazione, anche una buona dose di approvazione da parte degli uomini, ovviamente. Però io faccio riferimento soprattutto alle donne che non hanno generato prove. Io non riesco a capire perché una donna deve andare in pensione 5 anni prima dell'uomo, visto che campa, bontà loro, o campano 8 anni in più. Eh beh sì, anch'io non lo capisco Alberto. Per cui questa grossa differenza io francamente non la vedo. Un'altra questione è l'elezione della regione in Abruzzo. A me qua pare che adesso, io non so, forse a lei non è che piaccia molto, ma il vincitore unico sia l'onorevole Antonio Di Pietro. Beh Alberto, guardi che lo sto dicendo da ieri, per cui... mi scusi, allora non ho... Non c'è il minimo dubbio su questo, la ringrazio. Andiamo a sentire i titoli del TG2. Tangenti e petrolio a Potenza, arrestato l'amministratore di Total Italia, coinvolto anche un deputato del Partito Democratico, appalti a Pescara, arrestato il sindaco PD. Dopo la sconfitta in Abruzzo e il terremoto giudiziario di Pescara e Potenza parlano al TG2 opinionisti e osservatori a confronto sul travaglio della sinistra. Il ministro dell'economia Tremonti lancia la proposta di attingere ai fondi europei per rafforzare gli ammortizzatori sociali e sostenere l'occupazione. Primo confronto con Bersani. Caso Englaro, il ministro Sacconi invia un atto di indirizzo alle regioni. Illegale interrompere cibo e acqua per le persone in stato vegetativo. Riguarda le strutture pubbliche e private. Fini ripete che le leggi razziali durante il fascismo furono un'infamia, ma salvo rare eccezioni la società e la Chiesa si adeguarono. E scoppia la polemica. Continua l'ondata di maltempo in Italia, nord neve e rischio valanghe, vento e nubi fragili al centro-sud. A Roma nuovo allarme fiumi, da domani previsto un miglioramento. Bene, andiamo a sentire Roberto, provincia di Como, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, io volevo così due riflessioni, magari anche tra queste una domanda a lei. Ho sentito che il direttore Ostellino è andato giù abbastanza pesante su quello che sono poi i nostri dirigenti politici. Insomma, io mi auguro, magari chiedo anche a lei, pensa che riflettano su questo? Questa è la prima domanda. E poi mi auguro tanto che sulla questione morale, che ora tutti cavalcano, che non resti solo una tigre da cavalcare. Insomma, ecco, solamente questo. In che senso? Te ne parlano tutti improvvisamente, non ho mai sentito parlare la classe politica di questione morale, hanno fatto e se ne vede tra denunce e altro, insomma, no? Cioè avvisi di garanzia, eccetera. E quella è la vera questione morale. Morale è una parola importante, non è una parola così. Quindi mi auguro che non resti una, come si dice, solamente un momento, una tigre da cavalcare. Va bene, va bene. Comodo. La ringrazio. Grazie a lei, buonasera. Michele da Cremona, buonasera. Dottor Cruciani, no, io in realtà mi riallaccio all'intervento appena sentito. Mi auguro veramente che questa questione morale resti una tiga da cavalcare e si fermi lì. Perché anch'io vorrei. Anche perché vorrei non capisco in cosa consista la questione. No, io vorrei suggerire un punto di vista un po' alternativo a quello della morale, dal quale vedere la politica italiana oggi, che è quello della capacità dei nostri amministratori. Io non so se lei conosce, immagina, a livello locale, io vivo in provincia, a Cremona, pur lavorando su una metropoli, Milano, sì, sì. Però io non so se lei ha in mente il livello medio dei nostri amministratori a livello locale, come capacità manageriale, come idee. Ma e guardi, ho alcuni esempi, alcune esperienze, ho vissuto, conosco alcune realtà. Ecco, io credo che... Che vuole che le dica? In alcuni casi sono realtà di buona amministrazione, in altri casi sono realtà di cattiva amministrazione, almeno secondo me poi. Certo, io ho dei dubbi in realtà sul reale livello di competenze, di capacità manageriali, che secondo me ormai, soprattutto a livello locale, servono. La politica si è trasformata molto, ai noi, dalla politica delle idee alla politica della buona amministrazione. E allora la mia domanda è, alla quale... Ho provato a porre questa domanda anche a dei politici, non ho mai ottenuto risposta, ma cosa fa la politica oggi veramente? Quali canali apre in maniera strutturata per richiamare a sé i veri talenti della cosiddetta società civile? Cioè, si sente spesso ultimamente, io sono giovane, ho 34 anni e sono manager in una multinazionale, sono molto appassionato di politica e ogni volta che sento da una parte o dall'altra parlare di scarso interesse dei giovani per la politica, difficoltà nel recepire all'interno della società talenti che siano interessati a fare politica, rabbrividisco, perché non è così. In realtà insomma, la politica un po' è così, perché ma guardi, io mi permetto di dire per esperienza personale, in realtà la politica non cerca i talenti. No, su questo non c'è dubbio. Ecco, in realtà, non so, un giovane come me, manager che lavora nell'ambito della sanità, quindi anche in un settore che tutto sommato alla politica dovrebbe interessare. Io ho una doppia laurea in ingegneria, ho fatto il ricercatore a Stanford, adesso al di là del mio caso, io le porto il mio caso. Sì. Ho provato a bussare alla porta della politica, ho trovato solo indifferenza, quindi mi chiedo quali sono i canali attraverso cui la politica cerca veramente chi è abituato ogni giorno nel mondo dell'azienda a ottenere sempre migliori risultati con sempre minori risorse, che poi è quello che serve oggi alla politica. Ma guardi, per fare politica innanzitutto non è che necessariamente bisogna candidarsi, fare politica spesso significa magari fare il consulente di qualcuno, come lei sa il politico non è necessariamente l'esperto, è quello magari bravo in altre cose, bravo nelle relazioni, nel parlare. Un esperto può essere incapace a comunicare, insomma ci sono diversi aspetti. Ripeto che sapersi scegliere i collaboratori credo che sia una delle caratteristiche principali che dovrebbe avere un politico. Secondo me alcuni degli amministratori finiti peraltro nell'occhio del ciclone negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, parlo in particolare del sindaco di Pescara Alfonso, ma anche del sindaco di Firenze Domenici, per altri motivi sono situazioni completamente diverse, perché Domenici non è nemmeno indagato, è nulla. Sono due ottimi amministratori, ripeto, secondo me dalle cose che ho visto concretamente nelle rispettive città. La ringrazio. Andrea da Treviso, molto velocemente perché andiamo verso la conclusione. Andrea, dica. Buonasera Cruciani. Senta, velocemente, io sono quasi sempre d'accordo con lei. Mi pare di capire dai precedenti interventi che su un argomento non lo sono. Riguarda la proposta di legge di riduzione del limite del tasso alcolemico. Sì. Le sottopongo questa breve riflessione per vedere. No, tra l'altro mi scusi, io ho detto, non ho detto di essere favorevole, ho detto in linea di massima, quando non si ottengono risultati, forse la linea dura da questo punto di vista, come è successo con la legge sul fumo, potrebbe essere una soluzione, però non sono particolarmente convinto. Secondo me questa vicenda presenta delle analogie con invece l'aspetto pur tragico delle morti bianche sul lavoro. Le spiego perché. Mi sembrano due emergenze che sono indotte prevalentemente da una funzione, diciamo, civico-pedagogica che assume purtroppo a volte il giornalismo o comunque i mezzi di informazione. Però in questo caso ci sono, mi scusi, ci sono gli incidenti provocati da chi è ubriaco, chi assume alcol, che non è che sono cose filosofiche o cose pedagogiche, sono fatti concreti e dati. Sì, io, se vogliamo parlare di dati, mi riferisco per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro, per me è una falsa emergenza perché questi sono in continuo calo di anno in anno. Sì, però quindi, qui stiamo parlando di morti, però non parliamo di altre cose, parliamo di... Volevo invece per quanto quanto riguarda il limite al tasso alcolemico, io devo dire che non ho dati, però il mio campione, anche se non rappresentativo, sì, basa sulle persone che conosco, che frequento. Io lavoro nel mondo del vino, quindi di queste cose, sì, ne parlo spesso. Io noto che c'è una crescente preoccupazione, una crescente intenzione a rispettare le regole. Mi pare che il limite fosse già stato recentemente... ma non tutti, appartengono al suo mondo. Andrea, devo davvero concludere. Prima mi ha mandato un messaggio un sommelier, non so di dove o non ricordo dove, forse non l'aveva scritto, dicendo: io non so se sia giusto o meno, so solo che quando guido non bevo nemmeno mezzo bicchiere. Ci sentiamo domani 18:30 alla Zanzara. La Zanzara.